bienvenue, welcome, Français, étranger, stranger, Ludwig, Suzanne, je suis enchanté, happy to see you, bleibe resté, welcome and bienvenue, welcome, im cabaret, au cabaret, tu La puntata di Cabaret di oggi continua il discorso delle puntate precedenti, in particolare della puntata su Iannacci. Abbiamo visto che il primo periodo dell'attività di Enzo Iannacci si svolge in quell'ambiente milanese così ben tratteggiato dalla colonna sonora di Liquirizia, di cui appunto vi ho fatto ascoltare alcuni brani nella settimana scorsa, e Manfredi e Ricky Gianco illustrano molto bene questo tipo di ambiente. E subito dopo questo periodo giovanile, caratterizzato anche dalla collaborazione con Gaber, di cui appunto avete ascoltato la settimana scorsa canzoni come I Due Corsari o Zitto Prego, c'è il cosiddetto Iannacci del periodo L. Il periodo L è cosiddetto perché quasi tutte le canzoni di Iannacci di questo periodo portano nel titolo testi con molte L, tipo Il cane con i capelli, Il mio amico Aldo, robe del genere, oppure L'ombrello di mio fratello, o Passaggio a livello. E questo tipo di cose fa dire a Manfredi, che appunto è l'autore di questo libro, che Iannacci attraversava questo tipo di periodo. Era il 1958, era appena uscito come casa discografica Ricordi, e questa gente, dice, fece fare dei dischi a persone assolutamente sconosciute. Venne fuori così Bindi, Tenco, Paoli, Endrigo, Maria Monti, Ornella Vanoni e tra l'altro anche Gaber e Iannacci. E proprio grazie a Nanni Ricordi si riuscì praticamente a convogliare tutta questa serie di persone che nel 58 erano considerate assolutamente al di fuori dal mercato discografico, infatti lo erano, all'interno di una struttura che poi pubblicò i dischi. Enzo Iannacci in questa collana faceva, oltre a queste canzoni in L, faceva anche alcune canzoni che erano all'insegna del puro nonsenso, tipo Vegger o Bambino Boma. Enzo, dice Manfredi, è già chiaramente un cantante folle, un surreale dal piano bar, il che non è poco. Al pianista bar chiedono di fare la musica soft e non è affatto leggera la scelta, invece di sorprendere, di offrire insolito. Questo insolito sconfinava anche nel cabaret, perché non dipingeva macchiette parodistiche, ma situazioni totalmente astratte, disperse, come si perde lo strano tipo che cerca, senza trovarlo, l'ombrello del fratello. Io vorrei farvi ascoltare da questo LP, che è decisamente poco conosciuto, alcune canzoni e non so, magari dopo vedremo che tipo di discorso, ammesso che di discorso si possa fare su dei nonsense, si può intavolare su questo genere di cose. La prima, come dicevo, è appunto L'ombrello di mio fratello. So se è la prima volta che si sente questa storia, la storia di uno che cercava un ombrello. L'ombrello di suo fratello non era tornato nemmeno a mangiare per cercare l'ombrello di suo fratello. Roba di lusso, un vero gioiello, roba di suo fratello. E già, ma com'era quell'ombrello? Intanto era di mio fratello. Suo fratello, un tipo sfacciato, maleducato, raccomandato. Non era tornato nemmeno a mangiare per cercare l'ombrello di suo fratello. Roba di lusso, un vero gioiello, roba di suo fratello. Allora, dunque, trovato l'ombrello? No, non l'aveva trovato, ma poteva continuare, continuare a cercare. Guarda quest'altro, dice il fratello, un altro ombrello, guarda che bello. Chissà di chi era quell'ombrello, non certo di suo fratello. Ma come, io non torno nemmeno a mangiare per cercare l'ombrello di mio fratello. E quello lì perché è sfacciato, raccomandato, ruba gli ombrelli. Però anche questo, che roba, che bello ombrello, un vero gioiello, chissà di chi era quell'ombrello, ormai roba di mio fratello. La la la la la. E questo che ci siamo appena sentiti nell'ombrello di mio fratello, un Iannacci decisamente un po' strano, direi quasi che è un po' infantile, perlomeno come testi, decisamente diverso da come lo ricordiamo oggi. C'è da dire che sentiva anche l'influsso di questi cantanti che erano nella stessa scuderia. La prossima, ad esempio quella che appunto la famosa Passaggio a Livello, risente di alcune influenze che sono a metà tra Bindi e Tenco, direi, ma potrete giudicare voi stessi sentendo appunto questa sua Passaggio a Livello. Fermi a un passaggio a livello, mi hai parlato di te in un modo che io non conoscevo. Piano mi hai sfiorato una mano, sussurrato parole dimenticate. Ma in un baleno è schizzato via il treno, abbiamo smesso di guardarci, poi hai mai chiesto se era merci. Torna a parlare di te, a parlare del cuore, delle cose dimenticate. No, mi hai guardato ridendo, sei rimasta lì muta, muta come t'ho conosciuta. Ma in un baleno è schizzato via il treno, abbia smesso di guardarci, poi m'hai chiesto se era merci. Torna a parlare di te, a parlare del cuore, delle cose di ridendo, sei rimasta lì muta, muta come t'ho conosciuta. Da notare l'assoluto romanticismo della musica contrapposto invece alla casualità della situazione. Due che si dichiarano il loro amore ad un passaggio a livello e per tutta risposta la ragazza gli chiede se era un merci quello che è passato. Veramente assurdo. Come assurdo è questa Geru Geru. Geru Geru Ga, Geru Geru Ga, Geru Geru Ga, Geru Geru Ga. C'è un omino strano che descriver non si può, che va sempre in giro con le ghette e col palto. Dice di chiamarsi Geru Geru Geru Geru, metà bianco e metà nero, porta la felicità. No, no, non tentate di cercarlo, non si può. No, no, non cercate di trovarlo, non si può. Ma può capitarvi in un brutto giorno nero di incontrare Geru Geru, forte la felicità. Geru Geru Geru Geru Geru Geru Ga, Geru Geru Geru Geru Geru Geru Ga. Ma se un dì per caso incontrerete Geru Geru, metà bianco e metà nero, avrete la felicità. Mi sembrano ovvi gli impresti di samba che poi caratterizzano anche altri pezzi di Enzo. No, no, non tentate di cercarlo, non si può. No, no, non cercate di trovarlo, non si può. Ma se un dì per caso incontrerete Geru Geru, metà bianco e metà nero, avrete la felicità. La felicità, la felicità, la felicità. Sempre dei rapporti con le donne parla invece la prossima canzone, Un amore da 50 lire, notare l'inflazione. In un ristorante economico, mangiando solo minestra, facendo a meno del vino risparmiavo. Per restarti vicino è lì che io ti ho veduta in un ristorante economico ed eri così profumata, non si sa come eri lì capitata. Bugie, solo bugie, quando ci siamo parlati per non volermi vedere, per non dovermi incontrare. È lì che con quattro garofani un giorno ti avevo fermata, ma poi non seppi che dire, tu sorridendomi mi allungasti 50 lire. Bugie, solo bugie, quando ci siamo parlati per non volermi vedere, per non dovermi incontrare. È lì che mangiando minestra, facendo a meno del vino, io piango il mio amore impossibile, il mio è un amore che vale 50 lire. Bugie, solo bugie, quando ci siamo parlati per non volermi vedere, per non dovermi incontrare. È lì che mangiando minestra, facendo a meno del vino, io piango il mio amore impossibile, il mio è un amore che vale 50 lire. Direi che in questa canzone era molto molto evidente l'influenza di Bindi e se vogliamo anche l'influenza di certe canzoni francese che andava a quel tempo con una vena più o meno esistenziale nei bistrò parigini. D'altra parte le cantine in cui si esibiva Enzo allora erano evidentemente il corrispettivo delle cave di Montmartre. E fu lì che lo conobbe Lizzani e gli chiese di fare una parte nella Vita Agra, dove appunto, tratta appunto dal romanzo di Bianciardi, Enzo si esibisse come cantante facendo se stesso, cantando appunto il pezzo che abbiamo sentito all'inizio, quello dell'ombrello di suo fratello. E in questo periodo Fo lo conosce e d'altra parte gli imprestiti con Fo in ambiente milanese diventano inevitabili e all'astrattismo dei testi che era già molto interessante per lui ci aggiunge anche quel po' di tradizione della canzone lombarda di sinistra che già allora cantava Lavanoni che si era affermata come la cantante della mala, che cantava appunto storie di poveri cristi, un po' secondo la tradizione del porto evidentemente. Lavanoni però si prestava meno al personaggio del diseredato, mentre Iannacci, se non altro anche per i tratti somatici, lo era molto di più. Così con l'aiuto e la collaborazione di Fo nascono alcune canzoni in milanese e Iannacci si mette appunto a scrivere assieme a Fo questo tipo di canzoni vagamente impegnate che poi sfoceranno nello spettacolo 22 canzoni. Prima di queste però ce ne erano state scritte tante altre e molte di questo periodo diciamo milanese di Iannacci verranno poi via via edite negli LP seguenti, ad esempio la famosissima Quelli che in una versione molto diversa era già di questo periodo appunto inizio anni 60 fatta in collaborazione con Fo, poi Iannacci la trasformerà in un modo di cui parleremo quando l'ascolteremo. Per adesso limitiamoci a questa: t'ho comprato i calze de seda, ti ho comprato le calze di seta, scritta appunto in collaborazione tra Iannacci e Fo, dal disco La Milano di Enzo Iannacci. Tu comprai calzette di seta con la riga nera. Nera! Te camminai insieme a me come una pantera. Tissù del Basel, mi già del Basel, se ne rabel. Ti senza capel, mi conte capel, mi c'è ribel. Camminavo sempre insieme, la gente che la passava, la sepultava, la che guardava, la diceva, ma va che lì, e che compra anche la stola, e adesso un po' pistola. Che il pistola si rimì. T'ho visto far Crist in Giudà, su quattro sit, anche a me mi son visto in Giudà, su quattro sit, come ti pesce di, anche a me mi son visto in Giudà, rinciudà, un far Crist. Scarreghi ogni sera in piazza Beccaria, lì te mostre de South Bank la tua mercanzia. Ti sul marciapè, mi dentro al caffè, ti rucche te. Ti affasso i danè, mi aspenti danè, coi rucche te. Ti ho anche se mi insema, che sempre un po' di in un canton che il me guarda, il me guarda e il me dice, oe va che lì, il galadola che la rola, e adesso un po' un pistola. Ah, sariami il pistola, è il pistola del setì, te che la viete mantegni. Ah, sariami il pistola, è il pistola del setì, della ora più del dì. Ah, sarriami il pistola, testa di il pistola, sarriami il pistola, della ora più del dì. Ah, sarriami il pistola, testa di il pistola. Il milanese è sempre un po' ostico, però riassumendo brevemente, la situazione è quella del tipo. Assurda tra l'altro la situazione di lui giù dal marciapiede e lei sopra, che viene preso in giro ed emarginato dalla gente, che gli dice: guarda quello lì, alla donna che batte, deve essere un po' pistola. Sarei io il pistola? Il pistola sei tu, tu che lavori tutto il giorno. Sarei io il pistola? Il pistola sei tu che hai la moglie da mantenere. Sarei io il pistola? Quindi ecco la rivincita di chi viene in qualche modo emarginato o comunque criticato dalla gente, mentre in realtà è poi chi lo critica che avrebbe di che lamentarsi, evidentemente. E al mondo degli emarginati, dei barboon, appartiene anche la famosissima che voglio farvi sentire, è fin troppo famosa, però d'altra parte fu quella che gli diede una certa notorietà, fu anche quella che lo qualificò, e non è male al termine di questa trasmissione mettere una canzone conosciuta dopo tante canzoni che io credo fossero del tutto sconosciute, specialmente quelle del periodo L. La canzone, ovviamente, l'avrete capito, è la famosissima Il Portavis Cap de Tennis. Scusate, ma mi veri quinta, dumme amis, che le randa fa'l bagno, sul stradone, per andare all'idroscalo, era lì e l'amore lo colpì e il portava in scarpe il tennis e il parlava del perlù. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore e il portava in scarpe il tennis e il che aveva due cebù. L'era il prima meno via perché l'era un barbù. Un mes di che l'era tre a parlare e per lui l'aveva vista passare bianca e rossa che pareva il tricolore, ma per lui le stavo più di parlare. E il portava in scarpe il tennis e il parlava del perlù. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore e il portava in scarpe il tennis e il che aveva due cittebù. L'era il prima meno via perché l'era un barbù. Un bel dì vicino a te porti occhi che arriva una macchina, che è giovane, che domanda, oi, mammi, sei a lui, sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini, non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla porta Forlanini, scusa, lo scalo almeno la conosce, sì, lo scalo è il sud, adesso, il sud è lo scalo, compagno mio è lo scalo, mi dice un camicio una macchina, è bella questa macchina, sono mai stato una macchina, mi dice, signore. Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci. No, il compagno mio è dello scalo, che li faccia venire sulla macchina, anche io. Vengo anch'io sulla macchina. Vabbè, sì, sulla macchina. Bella questa macchina, è forte, è forte. Sono mai stato sulla macchina io. Bella questa macchina. Che mi si arriva? Si arriva dello scalo. Che fermo, che me la sa giochi. Un piacere che me la sa giochi. Che anche a me. Si interroba de barbò e il portavi scarpe il tennis e il parlare per lui. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore e il portavi scarpe il tennis e il che aveva due cebù. L'era il prima meno via perché l'era un barbò. Sotto un muccio di cartone, l'han guardato e pareva nessuno, l'han toccato che pareva che il dormiva, lascia stare che le roba de barbù. E il portavi scarle tennis e il parlava per lui, e il portavi scarle tennis perché l'erra un barbo, e il portavi scarle tennis per parlare per lui, e il portavi scarle tennis perché l'erra un barbo, e il portavi scarle tennis per parlare per lui. Si chiude così anche l'odierna puntata di Cabaret. È stata una puntata, a mio parere, abbastanza interessante perché ha recuperato un periodo della vita di Iannacci abbastanza sconosciuto. Per questo dedico abbastanza tempo al passato, perché suppongo che sia evidentemente quello che ha più bisogno di essere illuminato anche per comprendere meglio il presente. Questa promette di diventare una serie monstro, una serie veramente che non finisce mai, perché in pratica finora in due puntate siamo rimasti ancora intorno agli anni 60, la maggior parte della produzione discografica è seguente. Tuttavia ritengo che una figura come quella di Iannacci abbia bisogno di essere documentata, anche perché è uno dei cantanti, non solo di Cabaret ma anche italiani, più intelligenti che conti il nostro panorama. Con questo io vi voglio salutare, vi do appuntamento a mercoledì prossimo per la puntata di Cabaret e comunque a sabato per le repliche. Vi ricordo che il Cabaret va in onda tutte le settimane il mercoledì alle ore 16 e il sabato alle ore 21 come replica. A risentirci.